Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno, grazie. Benvenuti a questa nuova lezione di jazz, la prima del 2014, che dedichiamo al pianoforte, ma non al pianoforte in senso generale. Questa di oggi non sarà una storia del pianoforte jazz, ma sarà una storia del pianoforte jazz, anche un tentativo di entrare nei meccanismi profondi, anche più tecnici, della tecnica pianistica jazz da una prospettiva molto particolare, quella del pianoforte come strumento a percussione. Strumento a percussione, evidentemente, come vedremo, influenzato anche da alcuni elementi fondamentali dell'estetica del jazz. Perché strumento a percussione? Perché il pianoforte, io ho messo una slide, ma insomma ne abbiamo un ottimo esemplare qui in sala. Il pianoforte è uno strumento strano da un punto di vista della sua natura meccanica, sonora. Non sto a fare la storia del pianoforte, penso che sappiate tutti che il pianoforte è stato inventato grosso modo intorno alla fine del 600, primi 700, da un fiorentino, Bartolomeo Cristofori, che ha subito tutta una serie di trasformazioni nel corso del tempo, e lo strumento moderno che vediamo oggi è il risultato di una serie di cambiamenti, aggiustamenti, miglioramenti, arricchimenti tecnologici avvenuti nel corso dell'Ottocento fino ai primi del Novecento. Da allora il pianoforte è rimasto uno strumento sostanzialmente invariato e stabile. Vedete che ha diciamo, una doppia natura, e questo è interessante del pianoforte. Da un lato è uno strumento a corde, perché all'interno ha una vera e propria arpa. E infatti anche la forma di un'arpa, no? Con le corde più lunghe che sono le corde del registro grave e le corde più corte che sono le corde del registro acuto. Poi non so, chi non è pianista forse non sa che ad ogni nota non corrisponde necessariamente sempre una sola corda, ma possono corrispondere anche due o tre corde. Quindi vedete anche questi piroli qui sul basso, sopra la tastiera, attraverso i quali si accorda la tensione delle corde che risuonano sulla cassa armonica. Però, quindi, apparentemente è uno strumento a corda, come se fosse un'arpa. E come tale, tra l'altro, chi ha esperienza di musica contemporanea sa che a volte sia nella musica contemporanea sia nel jazz, i musicisti usano, lo strumento appunto come se fosse un'arpa, perché se uno pizzica, anzi, usando il pedale di sostegno. Ops, piccolo incidente, tra poco moriva il conferenziere un minuto dopo l'inizio della conferenza. Quindi lo si può usare in questo modo, però c'è una natura anche percussiva dello strumento, che tra l'altro è piuttosto problematica per chi suona questo strumento, perché ad azionare le corde ci sono dei martelletti che sono azionati attraverso un meccanismo che vedete piuttosto complesso, che adesso non guardiamo nel dettaglio, ma l'idea è che tra te, esecutore, e la corda che viene azionata c'è un meccanismo complesso che poi termina in un martelletto che percuote la corda e la fa vibrare. Questo meccanismo è una delle bestie nere di qualsiasi pianista, perché è una mediazione molto complessa fra il corpo del musicista e lo strumento. Cioè, se io non dico canto, ma suono per esempio uno strumento a fiato come il sassofono o la tromba, fra il mio corpo e l'aria che esce dallo strumento, c'è uno strumento a volte anche complesso, come per esempio il clarinetto o il sassofono, ma non così articolato e, diciamo, anche spersonalizzante come la meccanica del pianoforte. Per cui personalizzare il suono dello strumento attraverso una complessa combinazione di peso della mano, peso del braccio, gestualità corporea, uso del pedale, perché il pedale consente di liberare le corde e farle risuonare più liberamente. Quindi tutta questo insieme di elementi consentono a un pianista di, come posso dire, di personalizzare il suono. E ovviamente questo elemento percussivo però è un elemento molto affascinante, perché effettivamente io posso utilizzare lo strumento esaltando gli aspetti, diciamo, del colpo del martelletto piuttosto che della risonanza delle note. Anche perché il pianoforte è uno strumento strano perché al tempo stesso ha qualcosa di percussivo, ma anche, al contrario che so di un tamburo, ha le altezze, ha le note. Posso suonare le singole note. Allora, se io voglio esaltare l'aspetto percussivo, una cosa che posso fare è, per esempio, evitare di suonare le singole note. Questa è una tecnica che è stata utilizzata più volte nella musica classica. Per esempio, fin dai primi anni 10, il compositore americano Henry Cowell è stato quello che ha autorizzato i cluster, cioè degli insieme di note che a volte lui suonava con un listello di legno e che vengono notate in quel modo, tipo così. Quello che vedete è proprio questo. Oppure anche semplicemente con un pugno. Qualsiasi combinazione di note in cui io annullo l'idea melodica del pianoforte e ottengo invece un suono indeterminato come se fosse appunto uno strumento a percussione, che posso ovviamente anche ribattere e ottengo un effetto quasi appunto da tamburo. Un altro modo per esaltare gli aspetti percussivi riguarda l'alterazione del timbro dello strumento modificando la sonorità delle corde. Come? Secondo una tecnica che ha inventato John Cage, molto nota, su cui non mi dilungo, che è il cosiddetto pianoforte preparato. Cage inventò negli anni 40 questa idea di mettere degli oggetti, che sono, vedete, delle viti, dei pezzi di ferro, a volte della carta, in punti ben precisi dello strumento, in modo che alcune note vengono alterate timbricamente. Cage, tra l'altro, è stato uno dei primi a esplorare questo aspetto percussivo del pianoforte. In un brano del 1940 per pianoforte preparato che si chiama Baccanale, è pensato per una scena di balletto, è una sorta di rievocazione di un baccanale dell'antica Grecia. E vi faccio sentire un paio di minuti di questo pezzo, che è più lungo, per farvi sentire com'è il pianoforte preparato e come si possa ottenere un'idea molto percussiva, quasi di tamburi, con una preparazione del genere. Giusto un accenno di un brano che dura 6 minuti, ma questa è la prima parte. Tra l'altro avete notato che Cage utilizza una tecnica che vedremo utilizzata spessissimo in un'idea percussiva del pianoforte anche nel jazz. Annullare l'idea di melodia, per dare un'idea di tamburo, o di melodia più semplificata, suonando, ribattendo, si dice tecnicamente, sempre le stesse note. Cioè, invece di fare una melodia, tu ti blocchi su una o due note, perché in questo modo hai un effetto appunto meno melodico, sfrutti meno la gamma di altezze dell'arpa, diciamo così, del pianoforte, e più invece insisti su questo aspetto percussivo del martelletto ribattuto. Nel caso di Cage, con le variazioni timbriche che avete sentito, prodotte attraverso la preparazione del pianoforte. In realtà c'è un altro aspetto ancora più importante in questo mondo percussivo. Stiamo esplorando, vedete, gli aspetti soprattutto della musica colta occidentale. Il primo a utilizzare in una forma così massiccia l'idea di percussività del pianoforte, in realtà non è stato John Cage, forse non è stato neanche Henry Cowell, la cui musica non era particolarmente percussiva, anche se poi lui ha inventato questa idea del cluster, ma è stato Béla Bartók, il grande compositore ungherese, che ha individuato una attitudine percussiva nel pianoforte portando sullo strumento colto europeo la gestualità delle danze contadine ungheresi e balcaniche in generale, a volte anche romene, bulgare e perfino greche. In questo modo Bartók portò agli inizi del Novecento qualcosa che lui definiva barbarico, di contadino, di arcaico, quindi di molto corporeo, di molto fisico, su uno strumento sofisticato come il pianoforte. E in molti dei suoi lavori, soprattutto del primo periodo, lui è riuscito a mescolare una componente da, diciamo, da pianismo romantico, alla Liszt per capirci, con questo atteggiamento percussivo. Questo atteggiamento percussivo si manifesta proprio in una gestualità molto precisa che vedrete adesso nel prossimo filmato, di ribattuto sul pianoforte. Qui non c'è tanto un'idea di tamburo, in quello che ascolteremo tra poco, quanto c'è un'idea di portare quasi le danze balcaniche, quindi il battito dei piedi, il movimento del busto, la fisicità e il peso del corpo sullo strumento. Noi ci ascoltiamo un classico, ci vediamo anzi, un classico di Béla Bartók, che è l'Allegro Barbaro del 1911. Ah no, scusate, c'era un altro esempio. Vi faccio sentire, avevo dimenticato questa slide, un esempio jazz, ma magari facciamo così, lo ascoltiamo dopo, non voglio, andiamo prima su Bartók. Scusate un secondo, che avevo dimenticato questa slide, andiamo su Bartók subito. E poi torniamo indietro. Vi faccio sentire questo l'Allegro Barbaro 1911 di Béla Bartók, suonato da un giovanissimo Zoltán Kocsis, che è uno dei grandi specialisti del genere. Il video e l'audio non sono il massimo, vi avviso, però mi piace farveli vedere perché potete vedere molto bene questa gestualità percussiva delle mani sul pianoforte. magnifico. Qui la gestualità, vedete, del pianista è molto controllata, non ha bisogno di fare chissà quali gesti ampi, però questa componente contadina, corporea, si manifesta in questo ribattuto, avete sentito degli accordi, molto pesante. Bartok utilizza soprattutto il registro grave, questa è una cosa su cui torneremo nel prossimo esempio, il registro grave per ottenere questo effetto di pesantezza, di percussione corporea. Nel mondo afroamericano troviamo atteggiamenti molto simili a quello bartocchiano, ma con un'altra origine, con un'altra fonte. E questa origine e questa fonte è africana e ha a che fare soprattutto con un certo tipo di cultura africana, con le culture bantu dell'Africa centro-occidentale, che sono culture centrate musicalmente sulle poliritmie per tamburi, cioè in cui l'ossatura principale della musica è costituita da una serie di ritmi che si intrecciano prodotti da strumenti a percussione, prevalentemente tamburi di fogge e grandezze differenti. Ora, sapete bene che il tamburo implica una gestualità molto diversa, si può suonare sia con le bacchette, sia con le mani, con tutte le due mani, alternando le composizioni diverse a seconda dell'effetto che si vuole ottenere nel modo in cui si percuote la pelle, con i polpastrelli, con il palmo, con la mano a coppa, ci sono tanti sull'estremità, sul bordo del tamburo, al centro. Questo tipo di tecniche si trovano anche ovviamente in altre tradizioni culturali come il nostro meridione, pensiamo all'uso del tamburello o per esempio alla musica classica indiana nell'uso delle tablas. Ma noi qui ci concentriamo sull'Africa e il tipo di gestualità è comunque una gestualità che, come per il pianoforte, come nell'Allegro Barbaro, avete visto, suonato da Cochis, implica un movimento delle braccia, in particolare dell'avambraccio e dell'articolazione del polso. Non necessariamente, diciamo, c'è un peso del busto, ma comunque è soprattutto una questione che parte dalle spalle e arriva fino ai polpastrelli. Io vorrei farvi sentire un brano, e poi cerchiamo di andare più a fondo in questo discorso, che è in un certo senso l'equivalente dell'Allegro Barbaro di Bartok. E questo brano è un grande capolavoro della tecnica dello stride piano, che è uno stile pianistico emerso nella fine degli anni 10, soprattutto ad opera di un gigante del pianoforte e della composizione, James P. Johnson, che è stato una sorta di Gershwin nero, autore di musical, opere liriche, canzoni, musica sinfonica, quartetti d'archi e in più compositore per pianoforte e grandissimo improvvisatore al pianoforte. Se nelle storie della musica fate fatica a trovare Johnson, devo dire nelle più recenti per fortuna, come quella per esempio di Alex Ross sul Novecento, se ne parla, ma se avete fatto fatica a trovarlo, il motivo è, se trovate Gershwin e non trovate Johnson, sta a che fare semplicemente col colore della pelle. Johnson era nero e ha fatto molta più fatica a trovare uno spazio adeguato nell'accademia, diciamo così, nelle storie della musica accademica, anche se è stato un gigante. Johnson aveva scritto un lavoro sinfonico che tra l'altro comprendeva un passaggio pensato come imitazione di tamburi africani. Dato che non aveva i mezzi, non è mai riuscito a registrare la versione sinfonica di questo pezzo, ma lui stesso alla metà degli anni 40 ha registrato una versione pianistica di questo pezzo. Questo pezzo si chiama Jungle Drums, il titolo quindi spiega tutto, i tamburi della giungla, e la cosa straordinaria è che qui sentite veramente l'effetto tamburo, compreso non solo, diciamo, l'effetto percussivo con la gestualità del tamburo, ma anche a un certo punto c'è una melodia più sull'acuto che è come una sorta di canto che risponde a questi tamburi. È un po' l'equivalente dell'Allegro Barbaro di Bartok, ma in Bartok sentite l'elemento di danza contadina ungherese, qui sentite fortissima la gestualità dei tamburi africani. La registrazione della metà degli anni 40 ed è lo stesso Johnson al pianoforte. Thank you. questo è uno dei capolavori della storia del pianoforte americano, uno dei capolavori non riconosciuti, dimenticati, e tra l'altro in singolare sincronia cronologica con il baccanale di John Cage, perché furono praticamente composti e registrati quasi contemporaneamente. L'effetto percussivo che avete sentito in Johnson da tamburo è ottenuto innanzitutto, come in Bartok avete visto, privilegiando il registro grave, come a dare l'idea di peso corporeo e nel caso di Johnson proprio dei grandi tamburi africani. Un altro modo per evitare che la cosa suoni troppo melodica è quello di, uso un verbo che dalla connotazione negativa, stavo per dire sporcare, diciamo modificare i suoni, cioè lui usa il fa e per esempio un buon modo è, cioè invece di fare, suonare una nota vicina quasi contemporaneamente all'altra, così. Facendo in questo modo, e non in questo, l'aspetto melodico viene oscurato a favore di un suono più confuso che quindi esalta l'aspetto percussivo. Tecnicamente, se qualcuno poi uscendo di qui vuol farsi il figo con gli amici, si chiama acciaccatura. Potete anche mettervi lì al red, al bar, e dire la parola acciaccatura ad alta voce. Ci sarà sicuramente qualcuno che si volta e dice, ah, però... l'effetto dell'acciaccatura, anzi nel registro più grave è ancora più efficace, è di particolare efficacia percussiva. Ora, siamo sicuri che Bartok e James P. Johnson in campo jazzistico siano stati i primi a portare questo elemento percussivo nella musica occidentale, meglio, su uno strumento non africano, non percussivo, non contadino dal punto di vista di Bartok, come il pianoforte? La risposta è no, non sono stati i primi. In realtà c'è un precedente straordinario che è un compositore che solo di recente si è finalmente guadagnato il giusto posto nella storia della musica, che è Louis Moreau Gottschalk. Louis Moreau Gottschalk è uno degli eroi della storia della musica americana, uno dei più grandi pianisti che siano mai vissuti nella storia, una sorta di Liszt americano, un super virtuoso che ha girato mezzo mondo, nonché un compositore la cui musica, diciamo, di cui alcuni pezzi hanno rappresentato una pagina rivoluzionaria nella storia della musica, di cui solo da qualche tempo gli storici hanno cominciato a prenderne atto, diciamo, a comprendere la portata dei lavori di Gottschalk. Gottschalk era nato a New Orleans, e questo evidentemente è un dato significativo, era cresciuto avendo nelle orecchie, pur essendo bianco, venendo da una famiglia medio borghese, era cresciuto con una tata che veniva da Haiti, e è cresciuto avendo nelle orecchie i canti antillesi, i canti caraibici anche, che gli cantava la tata e che comunque ha potuto sentire a New Orleans. Poi lui, essendo un bambino prodigio, fu spedito, poco più che adolescente, presso il conservatorio e presso la città dove tutti andavano a studiare, cioè a Parigi. Questo americano viene mandato, questo ragazzo viene mandato a Parigi, e è lì che ha modo di comporre una serie di pezzi che poi vengono pubblicati nel 1849 a Parigi, che lui suona in quegli anni, per esempio alla Salle Pleyel, che sono pezzi nei quali lui porta dentro gli elementi caraibici e antillesi dentro la musica romantica. La sua musica è in parte, per esempio, ispirata a Chopin, che lo andava a sentire alla Salle Pleyel, che gli fece anche i complimenti, ma con un elemento afroamericano. Pensate, metà dell'Ottocento, c'è un pianista che per la prima volta suona musica nera mescolata alla musica classica, e con risultati assolutamente sconcertanti. Il primo pezzo che lui pubblicò di questo genere si chiamava Bambula, che guarda caso è una parola bantu, è una parola dell'Africa centrale che vuol dire ricordo, e che gli schiavi dell'Ottocento associavano ad una danza che evidentemente ricordava, era una sorta di rimembranza, di legame, di ricordo, di rinvio alle culture africane d'origine. Quindi questo americano pubblica a Parigi, intorno alla metà dell'Ottocento, un pezzo con un nome, con un titolo africano. E chissà quante persone capivano questa cosa. Infatti il sottotitolo è Danza di Negri, per capire appunto che si tratta di qualcosa di molto particolare. Bambula, che è basata a due melodie che sono basate su dei canti popolari caraibici, in realtà si apre con un gesto incredibile. Questo è il primo esempio di gesto del tamburo portato su un pianoforte. Anche per chi non legge la musica, ci sono questi re bemolli con tre F. Non è un gesto melodico, non è un gesto neanche romantico da pianismo di Mendelssohn, non dico Beethoven, ma di Mendelssohn o di Chopin. E invece sono dei colpi di martello, pesanti, non è però un martello, è un tamburo. E perché la bambula non solo è una danza, non solo una parola africana, ma è anche un tamburo, il nome di un tamburo in certe culture africane. No, allora la mano sinistra attacca con questi colpi di tamburo. E poi la mano destra, quando entra con l'altra figurazione, che adesso ascolterete anche che per chi non legge la musica, inizia con un ritmo, quello che vedete all'inizio nel primo rigo, che è ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Questo ritmo, su cui magari potremmo fare una conferenza l'anno prossimo, perché c'è tutta una storia di questo ritmo è un ritmo di tamburi e la gestualità richiesta è una gestualità da tamburo. Gottschalk sta portando il movimento delle mani sui tamburi, sul pianoforte, e non è minimamente interessato a sviluppare qualcosa che è tipico della musica romantica, la melodia. La melodia arriverà molto più avanti, c'è solo questa figura ripetuta, sempre uguale, con questi movimenti. Anche chi non legge la musica lo vede graficamente, che la mano destra e la sinistra si intrecciano con questi movimenti di tamburi. Il pezzo è talmente importante che anche se dura più degli ascolti medi, dura 7-8 minuti, anzi 6-7 minuti, lo ascoltiamo per intero. Perché è una pagina fondamentale nella storia del pianoforte ed è il primo esempio in cui nell'estetica musicale occidentale giunge un elemento di estetica musicale africana. La percussività, la reiterazione, il gesto che si impone sulla melodia, il gesto del tamburo che si impone sulla melodia, proiettato su uno strumento occidentale, il pianoforte. mio buon lavoro. Pensate che Gottschalk l'ha scritto tra i 16 e i 17 anni. Aveva 16-17 anni quando scrisse questo pezzo e lo suonava, ovviamente, tanto per darvi un'idea del livello. Qui il pianista era Philip Martin. Questo atteggiamento percussivo, che è attraverso Gottschalk poi è arrivato anche al jazz, si coglie molto bene proprio nello stride piano di James P. Johnson. Ecco che riannodiamo il filo con James P. Johnson, che ci consente anche di cogliere alcuni aspetti che si trovano nel pianismo moderno, in particolare, prima di tornare allo stride piano, il boogie-woogie, cioè l'adattamento del blues con la chitarra, la voce, il contadino che se ne va in giro a suonare agli angoli delle strade, portato però sul pianoforte. Il boogie-woogie è un genere pianistico, un blues pianistico nato alla, diciamo, fine 800, primi 900, presso i taglialegna del Texas, in condizioni ambientali, di lavoro, sociali molto, molto dure, molto pesanti, in posti veramente insalubri come bordelli, bettole messe nei boschi dove le persone si ubriacavano e cercavano di dimenticare la fatica del taglialegna. Però all'interno di queste bettole, i cosiddetti barrel house, i pianisti provavano a suonare il blues dei contadini sul pianoforte, e lo nel momento in cui l'hanno fatto, su questi pianoforti scassati, hanno cominciato a far riemergere, stiamo parlando di neri, di afroamericani, persone che una generazione prima erano ancora schiavi, fanno emergere una sorta di memoria africana. Questa memoria africana consiste principalmente in due aspetti. Uno, l'elemento percussivo del pianoforte. Dimenticatevi le sottigliezze timbriche di Gottschalk, entriamo invece in una dimensione di assoluta, veramente di assoluta secchezza del timbro. La mano affonda nei tasti, non ci sono particolari sottigliezze di colore, mentre tutto sta nel far vibrare lo strumento attraverso l'impatto percussivo del corpo, delle mani. Questo impatto percussivo è esaltato da un altro aspetto squisitamente africano, che tra l'altro si coglie bene anche in Gottschalk: la ripetizione di piccole frasi, cosiddetti riff, cioè che sono un altro elemento dell'estetica bantu, che poi troviamo nel blues, nel rhythm and blues, nel jazz, nel rock, cioè piccole frasi ripetute. Questa è una cosa tipica dell'Africa centro-occidentale. Ecco perché Gottschalk ripete, c'è questa idea della ripetizione, lì ovviamente in Gottschalk anche variata alla Chopin, ma sotto c'è questa idea della ripetitività, che è un elemento squisitamente bantu, soprattutto di piccole frasi. A volte nei pezzi di boogie-woogie, mentre il pianista macina degli accordi con la mano sinistra come se fosse una macchina, con la destra suona semplicemente un accordo, bam, bam, bam, bam, come se fosse appunto un tamburo. Questo elemento non melodico, ma puramente ritmico e percussivo, che è africano, emerge in maniera netta nel boogie, che tra l'altro ha anche questo doppio elemento, cioè un ritmo costante della mano sinistra e dei controritmi con la mano destra, in un effetto di verticalità del flusso musicale, che è anche questo molto africano. Ripetitività orizzontale, complessità di intrecci verticali. C'è un ultimo elemento da considerare, l'intonazione blues. Nel blues, il cantante di blues con la sua chitarra tende a intonare le melodie in modo non occidentale. Cioè, sapete le blue notes, no? Cioè queste note che hanno un'intonazione mobile, non sono una nota precisa. Sono delle note, soprattutto la terza, che si spostano, che si muovono, possono essere per esempio intonate con la slide, sulla chitarra o con la voce. Questa cosa sul pianoforte non la puoi fare, perché, per esempio, nel blues o suoni il mi bemolle o suoni il mi, mentre con la voce io posso oscillare fra queste due note. Come fa un pianista a ottenere una approssimazione dell'intonazione blues? Lo fa in un modo percussivo, con le famose, lo sapete adesso, acciaccature, la parola chiave per fare i fighi al red, cioè suonare quasi insieme le due note. E questa cosa è tipica del pianismo boogie-woogie, è stata portata nel pianoforte occidentale dai pianisti boogie. Anche doppie acciaccature, c'è più note. E tra l'altro questo elemento gestuale, capite che è molto forte, cioè uno non pensa alla precisione, ma a applicare un gesto. Questo gesto così, poi ricordatevelo perché sarà molto importante in una cosa che vedremo dopo. Un frammentino di uno dei più grandi pianisti di Boogie Woogie, Made Lux Lewis, l'autore del famoso Honky Tonk Train Blues, che qui esegue in un filmato dei primi anni 60, se non ricordo male. Guardate il gesto. Ritmo. Accadure. Tra l'altro, è fantastico, sì, tra l'altro, questo tipo di ripetitività con le note che si alternano viene dal repertorio per arpe e arpe liuto dell'Africa, diciamo, subsahariana, del Sahel, soprattutto il Senegal, il Gambia. Ci sono molti esempi di musica africana in cui trovate proprio questo tipo di andamento ritmico e melodico che poi riemerge come una specie di memoria arcaica nei primi del Novecento tra Italialegna del Texas e diventa parte dello stile boogie woogie. Dicevamo che questo stile boogie woogie comunque poi confluisce anche nello stride piano di James P. Johnson. Io vorrei farvi sentire, anzitutto per intero, poi ci andiamo a sentire dei pezzettini isolati, un classico di James P. Johnson, che è Carolina Shout, che è un brano molto importante su cui adesso non mi dilungo, in una registrazione che Johnson ha fatto negli anni 40. Non è più in grande forma Johnson, ha avuto un infarto, c'è un batterista che lo accompagna per tenere il tempo, la mano sinistra è più debole, non la si sente molto, ma ho scelto questa registrazione perché è più nitida delle registrazioni degli anni 20 e si sente molto bene l'elemento del riff, delle percussioni, e si sentono dei punti in cui lui proprio quasi schiaffeggia il pianoforte. E in più, ma questo lo vedremo in un attimo dopo, in dei passaggi più dettagliati, utilizza delle combinazioni di suono che sono molto percussive. Intanto ascoltiamo il brano. Cadura. Tamburi. Accercature. Gesto. Thank you. vorrei estrarre rapidissimamente un paio di due o tre frammenti da questo brano per farvi sentire intanto l'introduzione, sentite. È molto percussiva, con questi piccoli cluster, avete sentito queste frizioni interne della musica. Poi. E poi la cosa più impressionante è il finale. Ascoltate. Ecco, questo suono che avete sentito vale la pena di essere analizzato, non esattamente come l'ha suonato, ma vi faccio capire il concetto. Suona percussivo, anche se non è suonato necessariamente in modo molto percussivo, perché Johnson utilizza una tecnica armonica che prova a spiegarvi in termini molto semplici. Il concetto di base è che quando avete una nota potete replicarla, si dice tecnicamente un'ottava sopra, cioè la stessa nota un'ottava sopra, per esempio, ok? Oppure qui, va bene? Io però tra queste due note posso mettere per esempio una nota dissonante. Se questa nota dissonante viene sotto l'ottava, cioè la metto sotto, così, ottengo un discreto effetto dissonante, lo sentite, no? Bene, questa è l'ottava. La nota dissonante sta sotto l'ottava. Ma se la metto sopra, l'effetto è molto più dissonante. Sentite? Questa è l'ottava. Oppure questa. Se poi combino queste cose, ottengo degli effetti molto dissonanti. Questa è una tecnica inventata da Johnson, questa di mettere le dissonanze sopra l'ottava, in modo da creare dei conflitti fra le note che annullano l'effetto melodico del pianoforte ed esaltano l'effetto percussivo. Questo è il trucco. Questo trucco poi sarà ripreso paro paro dalla persona a cui abbiamo dedicato il titolo Trinkle Tinkle della conferenza. È il titolo di un tema di Thelonious Monk, che è un maestro proprio nella dislocazione di queste dissonanze che servono a creare un effetto percussivo a scapito dell'effetto melodico. In realtà, prima di arrivare a Monk, voglio farvi vedere un filmato di un altro gigante del pianoforte, che secondo me è davvero uno dei padri, father, come lo chiamavano, non solo del pianoforte jazz, ma è uno dei padri della percussione jazzistica sul pianoforte. E il filmato che vi faccio vedere adesso è fantastico, perché un filmato del 1965 a Parigi, Erlines ha più di 50 anni qui, ma in una forma strepitosa. Il regista è abbastanza, l'operatore, insomma, abbastanza attento da concederci lunghe, numerose inquadrature delle mani, e qui potrete vedere una cosa formidabile, che per Erlines, che è il primo grande improvvisatore del pianoforte jazz, il gesto è più importante delle note. Attenzione, non ho detto la percussione, ho detto il gesto. Cioè lui non produce le note pensando, adesso faccio questo accordo, a parte che è un, come dire, la sua mente è quella di un flusso continuo che lui gestisce in maniera istantanea, non ha un piano prima, non ha un progetto, è un improvvisatore puro. Ma dentro questa improvvisazione pura, e vedrete tra l'altro anche umanamente come lui se la gode a suonare questa improvvisazione pura, lui fa tutta una serie di gesti. Vorrei in particolare farvi notare alcuni che sono, diciamo, accordi suonati così con la mano destra. Lui ha la mano che è il triplo della mia, quindi gli viene tutto meglio, ovviamente. E soprattutto una serie di salti della sinistra con un uso del pollice. Vi sembrerà molto tecnico questo, ma si vede benissimo nel filmato, in cui lui, con grande precisione, colpisce delle note, ma quello che è interessante è come lo fa. Colpisce le note col pollice in questo modo. E ottiene un effetto fortemente percussivo, dato appunto dalla gestualità. Se volete una sorta di proiezione contemporanea dei gesti di Gottschalk e di Bamboulà, è sul pianoforte jazz. Non aggiungo altro perché è una goduria poterlo vederlo. Improvvisa su un suo pezzo che si chiama Heinz Tunes. Vorrei essere Airlines, devo dire, veramente, a parte il parrucchino, ma insomma, è veramente eccezionale. Avete visto questa gestualità. Ora, tra l'altro, spesso, come vedete, anche a scapito della precisione, della pulizia, ma perché quello che è importante in questo tipo di gestualità è il tipo di suono che viene fuori. Anzi, la sporcizia è come l'acciaccatura, cioè una nota che cogli in maniera imprecisa, e questa imprecisione ti produce più un effetto percussivo e meno un effetto melodico, siamo sempre lì, quindi anche l'imprecisione è in un certo senso funzionale a quel tipo di estetica. Forse il pianista più apertamente percussivo e più influente in questa percussività insieme ad Airlines è stato Duke Ellington. Ellington è meno barocco di Airlines, è più scarno, e in questo essere più scarno e più, appunto, più incisivo, utilizza di più il peso, io morirò veramente, ecco, facciamo così. Cioè l'idea di di far cadere il peso del braccio sullo strumento, e l'uso, lo sentirete nel prossimo esempio, è molto marcato delle acciaccature, anche per ottenere degli effetti molto strani. Purtroppo nel video che sto per farvi vedere l'effetto più strano non è inquadrato. Con rara sensibilità musicale il regista inquadra il contrabbassista, che non c'entra niente, e invece di inquadrare le mani di Ellington, che fa un accordo molto semplice, così, ma lo suona tutto con acciaccature, cioè così, ottenendo da un accordo semplicissimo un suono molto denso, molto scuro, alla Bartok, appunto. Noi vedremo adesso di seguito due filmati di Ellington. Partiamo dal primo, che è il più breve, brevissimo. È un filmato molto utile perché la macchina da presa è anche messa in alto, quindi lo vediamo dall'alto. È l'introduzione di Rockin' in Rhythm, che si chiamava Kinda Duckish. Sono pochi minuti che lui usa, in cui lui usa il pianoforte per introdurre il primo pezzo del concerto. È un video di un concerto in Svizzera del 1959, di cui sentirete anche un presentatore che presenta, se non ricordo male. Rockin' in Rhythm, das wir jetzt hören werden, ist wiederum bald 30 Jahre alt. Und gespielt wird es von Paul Gonsalves, Johnny Hodges, Jimmy Hamilton, Russell Prokope und seinem Mitautor Harry Carney, sowie von Clark Terry, Quentin Jackson und Ray Nance. Guardate i gesti. Le acciaccature. Continua. Allora, avete visto come fa alla fine? Cioè proprio il suono è determinato dal gesto. Avete visto anche questi gesti nervosi di mi tengo il ritmo della mano prima di colpire la nota ogni tanto, in modo da mantenere un senso dello swing anche se non suono. E questo rapporto fisico è completamente diverso, no, dall'atteggiamento più controllato del pianoforte classico. Non sto dicendo che uno è meglio o uno è peggio, sono due tecniche diverse per affrontare lo stesso materiale. Tra l'altro, dotato io di poteri extrasensoriali, sento già alcuni di voi che fanno delle domande, per esempio: ma questi pianisti hanno studiato anche un pianoforte classico? Cioè, questo tipo di tecnica è una tecnica inventata da loro o è il risultato anche di apprendimenti di vario tipo? Dipende. Per esempio, Airlines ha chiaramente una preparazione classica molto solida. Duke Ellington no. Ma questo è irrilevante in un certo senso, perché l'aspetto più forte di questa storia è che, discendendo da una tradizione come quella di Gottschalk, cioè di una è africana, cioè di un atteggiamento percussivo sul pianoforte, queste persone hanno inventato delle tecniche. Cioè siamo noi che studiamo loro, non loro che hanno studiato qualcos'altro. E questo è molto importante. Tutti gli esempi che abbiamo sentito fin qui sono pezzi rapidi, e uno pensa l'elemento percussivo viene esaltato dal tempo veloce. Vediamo invece come si possa ottenere un effetto percussivo su un tempo lento, ancora Duke Ellington in una bellissima esecuzione che io devo confessarvi, ho scoperto solo poche settimane fa preparando la conferenza su YouTube, che non avevo mai visto, di African Flower. Siamo intorno, credo, alla metà degli anni 60 in Francia. È una registrazione in studio, Ellington è da solo, suona questa sua straordinaria composizione, nella quale tra l'altro potrete sentire la tecnica della dissonanza acuta, cioè spesso Ellington suona, invece di suonare questo, suona questo. Cioè con questi effetti della nota dissonante messa sopra l'ottava. Suonando lentamente, lui può far veramente risuonare le note al meglio utilizzando anche il pedale. Poi non so perché suoni, visto che adesso c'è Duke Ellington, però insomma per farvi capire, affondando, con effetti di questo tipo, usando il pedale per far risuonare l'effetto dell'affondo. Non vi tedio oltre, passiamo direttamente a questa straordinaria African Flower di Duke Ellington. Thank you. Non è neanche il caso di applaudire, meglio stare zitti perché è qualcosa veramente di pazzesco. L'uomo che ha sintetizzato tutti questi elementi, la percussività di Duke Ellington, l'uso dei cluster, le acciaccature, il riff del boogie-woogie, la gestualità come proiezione fisica sullo strumento in modo da modellare in senso percussivo lo strumento, è Thelonious Monk, che è un musicista fin troppo noto per chi io qui lo approfondisca, ovviamente. Quindi passerei direttamente a farvi vedere il prossimo filmato, dove lui suona una canzone che è Just Gigolo, che conoscete tutti. È una registrazione, un video della fine degli anni 50, dove Monk suona da solo. Vi prego di notare l'assoluta disinvoltura della gestualità. Cioè Monk usa in maniera apparentemente casuale le pause per aggiustarsi l'anello, per sfregarsi le mani, poi ridà un botto. E notate una cosa caratteristica, lui usa una tecnica, non so se ci sono insegnanti di pianoforte, è meglio che si coprono gli occhi come i bambini, se no svengono, esattamente il contrario, mentre il pianoforte richiede una posizione del braccio di un certo tipo, con il polso messo sotto le nocche, la mano arcuata, eccetera. Monk invece suona con le dita piatte, così. Non so come potesse fare, lo vedrete, proprio suona così, aveva delle mani gigantesche peraltro, come vedrete, suona con le dita piatte e questo gli consente, ancora una volta, non è casuale, di ottenere quel certo tipo di suono percussivo. Tutti gli elementi che avete visto fin qui convergono in questo tipo di sonorità percussiva di cui Monk è il maestro assoluto, nonché il più influente dei compositori che suonano in questo modo. Just Gigolo. Guardate anche il gomito. Pollice. Fantastico. Dall'effetto tiepido dei vostri applausi presumo che ci sono molti pianisti in sala che rimangono, come dire, annichiliti e non riescono neanche a esprimersi. Vorrei sottolineare un aspetto a scanso di equivoci. Abbiamo molto esaltato questo aspetto percussivo a dispetto dell'elemento melodico. Vorrei però farvi notare che in Monk in realtà l'effetto percussivo è ottenuto anche utilizzando l'effetto, forse più che melodico dovrei dire armonico, cioè della compresenza delle note, scegliendo la giusta spaziatura. Cioè è vero che Monk, avete visto, in certi punti usa l'acciaccatura facendo quasi finta di sbagliare nota o scegliendo un gesto casuale in modo da poter sbagliare nota e ottenere l'effetto percussivo. Ma c'è qualcosa di più, perché Monk ottiene l'effetto percussivo spaziando i suoni. Cioè quando lui suona cose di questo genere, per esempio, questo o questa, sceglie volutamente una certa distanza fra i suoni in modo da eliminare l'effetto tradizionale dei suoni pianistici e ottenere un effetto, attraverso anche il tocco ovviamente, più percussivo. Questo per dirvi che l'elemento dell'altezza dei suoni singoli distribuiti in un certo modo esalta l'elemento percussivo. Tutti i pianisti che abbiamo visto fin qui, Monk, Duke Ellington, Johnson, che formano una sorta di discendenza, sono via via sempre più scarni. Avete sentito come scarno Duke Ellington, come è scarno Monk. Però l'effetto percussivo lo potete ottenere anche invece utilizzando una grande massa di suono. È un pianista molto sottovalutato da questo punto di vista, che vorrei farvi vedere, molto popolare e molto sottovalutato, che vorrei farvi vedere da questa nuova prospettiva, è Errol Garner. Come sapete, Garner era totalmente, non solo autodidatta, ma era totalmente analfabeta, era una specie di puro talento non coltivato, e io vorrei farvi vedere come suona Sweet and Lovely in un video degli anni 60, che direi si spiega da sé, perché mi pare dovrebbe essere... Ah no, scusate, c'è Herbie Nichols che però saltiamo, e vado direttamente a Garner perché mi interessa farvi vedere Garner più di qualsiasi altra cosa, perché ci offre un punto di vista inconsueto su questo elemento percussivo. Sweet and Lovely, in trio. Notate anche l'uso della sinistra. Acciaccature. Secondo me l'amico Stefano Bollani si è studiato attentamente queste performance di Errol Garner. Avete visto questa mano sinistra lievemente in ritardo, che ha sia un effetto come una chitarra ritmica, no? Però al tempo stesso lui usa quegli effetti di pollice come in Airlines, di questi colpi improvvisi che hanno un effetto quasi batteristico. Cioè, in questa concezione percussiva, spesso la mano sinistra funziona come la batteria, cioè serve a introdurre dei colpi dove le note non sono importanti, ma il loro piazzamento ritmico a creare un effetto di contrasto con la mano destra e di dialogo con gli altri strumenti. Addirittura questo effetto di, diciamo, di sezione ritmica, voglio farvi vedere una cosa in particolare, questo effetto di sezione ritmica della mano sinistra è particolarmente evidente in questo, è un frammentino brevissimo, nel pianismo di Horace Silver. Avevo un altro esempio, ma lo salto perché Horace Silver probabilmente lo tratteremo nella prossima serie delle lezioni di jazz. L'amico Roberto Catucci non lo sa, ma mi sono già prenotato per l'edizione 2014-2015 e magari, se ci sarà modo di farla, parleremo di Horace Silver. Silver è un pianista molto scarno, molto percussivo, ma a me interessa farvi vedere in questo gesto brevissimo la mano sinistra. Lui usa la mano sinistra esattamente come, lo dice lui stesso, come se fosse un batterista. Cioè gli serve non per fare delle note, spesso ne fa solo due di note, che sono per esempio queste. Ma fa un gesto che non oso neanche ripetere, lo vedrete voi, è inquadrato due volte. Attenzione! Guardate come lancia il solista. Proprio così. Capite? Non sono importanti le note che fai, quanto il tipo di... Sì, che poi si sente o non si sente, però so, perché qui la registrazione è un po' cupa, ma nei dischi si sente molto bene questo borbottio della mano sinistra, che nel gesto e nell'effetto è puramente batteristico. Un altro pianista, e ci abbiamo verso il clou, che è anche la conclusione della nostra conferenza, che vorrei farvi ascoltare, riascoltare da un nuovo punto di vista, il nostro praticamente penultimo ascolto, è Dave Brubeck, che, come sapete, è scomparso ultra novantenne poco tempo fa. Brubeck è, a mio avviso, estremamente sottovalutato, un po' perché era bianco, quindi in una visione nerocentrica del jazz più percussivo, uno pensa siano i neri a suonare in questo modo. In realtà Brubeck aveva questo approccio percussivo che forse è più vicino a Gottschalk di quanto pensiamo, perché come sapete Brubeck aveva studiato con Darius Milhaud, cioè con un grande compositore europeo, era imbevuto di musica contemporanea europea, aveva studiato Bartok, è più vicino all'Allegro Barbaro di James P. Johnson, che invece viene da una tradizione più vicina all'Africa. Quindi c'è, come dire, l'elemento percussivo europeo alla Bartok e in più una sua personale concezione del pianoforte, in cui la percussività è prodotta non con l'approccio secco e, come posso dire, scarno di un Duke Ellington o di un Thelonious Monk, né con l'approccio baroccheggiante di un Errol Garner, ma invece è pensato a blocchi di suoni, come nell'Allegro Barbaro, proprio dei blocchi scolpiti che sono il risultato anche di una somma di aggiunta di note, giro dopo giro, fraseggio dopo fraseggio, ci sono queste note, questi accordi che diventano via via sempre più densi e che poi lui usa in maniera ritmica sempre più eccentrica. Allora vi farei vedere un frammento di Blue Rondeau à la Turque, che poi è, durante l'improvvisazione, un blues, in cui lui suona questo blues e purtroppo le mani non sono inquadrate tanto in questo filmato, però fate attenzione, ascoltate e sentite come percussivamente Brubeck costruisce questi blocchi di accordi che, al contrario di quello che abbiamo sentito in Garner, per esempio, sono invece molto netti, molto puliti, molto luminosi, molto definiti. Thank you. fermiamo un attimo qui. Anche Brubeck, come vedete, è veramente molto, molto personale, molto singolare. Quest'ultimo esempio ci porta, diciamo, alla conclusione del nostro discorso e a parlare, in conclusione, dell'uomo che poi ha prodotto su questo versante, ma non solo su questo versante, la più grande rivoluzione pianistica del Novecento. Lo so, sono un po' enfatico, ma io credo che questo sia assolutamente vero. E cioè stiamo parlando di Cecil Taylor. Cecil Taylor è senza alcun dubbio il pianista che ha trasformato in maniera radicale la percezione e l'uso del pianoforte nel Novecento. Ovviamente non lo fa nel deserto, lo fa tenendo conto di una serie di componenti che hanno portato poi a fare in modo che lui sgretolasse l'approccio convenzionale al pianoforte, aprendo un orizzonte completamente nuovo nella storia della musica. E stiamo parlando di quali sono questi elementi. Sicuramente una forte componente classica, qualcosa che abbiamo già visto, Béla Bartók, lui ha studiato al Conservatorio di Boston e ha studiato la musica di Bartók. Qualcuno ci sente anche Stockhausen, anche se lui non ama e non ha amato Stockhausen, però sicuramente negli anni in cui Cecil Taylor cominciava a fare a pezzi il modo tradizionale di suonare il pianoforte, Stockhausen scriveva i Klavierstücke, che sono un'altra pagina rivoluzionaria nell'approccio alla disintegrazione dello strumento in senso tradizionale. Lo stesso Taylor ha ricordato che Horace Silver, con quella mano sinistra che avete visto e una mano destra che non abbiamo ascoltato, ma molto secca e percussiva, è stato fondamentale. L'uomo che è al centro dei pensieri, sempre stato al centro dei pensieri di Taylor, Duke Ellington, con quel suono percussivo, scarno. E poi, in un secondo momento, dopo Ellington, Taylor scopre Monk. Ma Ellington, l'uomo che gli fa capire che il pianoforte può avere un suono completamente diverso da quello tradizionale. E, ci crediate o no, il rivoluzionario Cecil Taylor aveva da giovane come riferimento Dave Brubeck, con queste sue masse scolpite di suono che accumulano energia spostandosi ritmicamente. Tutti questi elementi convergono in una serie di dischi, qui adesso non ascoltiamo, anche se è apparsa la scritta Port of Call, che potete comunque, come dire, cogliere come suggerimento d'ascolto, e poi alla fine degli anni, intorno alla metà degli anni 60, seconda metà degli anni 60, Taylor, nel momento in cui affronta le esecuzioni in pianoforte da solo, veramente abbatte le barriere. Entriamo in una dimensione dell'informale, un po' come nella pittura americana degli anni 40, fine del figurativo, entriamo nell'informale, nel flusso di energia, un flusso di energia che non è casuale, come è molto vicino a quello che stiamo per vedere a Airlines, cioè improvvisazione totale, su pochi elementi dati, che uno ha ben presente, che vengono messi insieme attraverso una specie di flusso di coscienza. In Airlines sono basati su un giro armonico, su delle melodie tradizionali, in Cecil Taylor no, ma il processo è lo stesso. E il pianoforte diventa una pura macchina percussiva, in cui la distanza che c'è fra il corpo, carne e sangue, e la macchina, come immaginate come in un film di Cronenberg, si fondono. Una specie di uomo-macchina, diventano tutt'uno. Taylor è in grado di smaterializzare la complessa meccanica del pianoforte per fare in modo che l'energia corporea, il gesto, memory di Bartók, di Stockhausen, di Duke Ellington, di Monk, di Brubeck, diventi tutt'uno col suono. E per farvi comprendere questa cosa direi di andare alla conclusione della nostra conversazione, tranne poi faremo una piccola osservazione conclusiva, ma insomma l'ultimo esempio è questo, un breve frammento in cui vediamo in studio Cecil Taylor che improvvisa il pianoforte. Le inquadrature sono molto belle perché ci consentono di vedere molto bene anche le mani di Taylor. Thank you. è come un muro che viene abbattuto, e a questo punto tutto è possibile, evidentemente. A chi non è pianista vorrei far notare che quello che fa Taylor non sono gesti casuali. Avrete notato che ce ne sono alcuni ricorrenti, come l'uso delle due dita, in modo da ottenere una sorta di iperacciaccatura. Cioè un suono appuntito, piccolo e molto percussivo. In altri casi il palmo della mano, ma non piatto, ma così, a volte più piatto, a volte così. A volte accordi aperti con una mano o un dito all'interno per ottenere degli determinati effetti, utilizzando sempre degli intervalli molto precisi, come avrebbe fatto James P. Johnson o Thelonious Monk, e poi anche degli elementi blues con le acciaccature, quando lui fa cose tipo con queste acciaccature che vengono dal boogie-woogie. È una sorta di somma di tutta questa grande tradizione, e io vi lascerei, tanto per saltiamo, diciamo, questo incontro con Max Roach che potete trovare su YouTube, e concluderei facendovi vedere appunto una possibile come dire, genealogia dei grandi pianisti di carattere percussivo nella storia del jazz. Di alcuni non abbiamo parlato, come per esempio Randy Weston o Herbie Nichols, ma come vedete ci sono molti di quelli di cui abbiamo discusso, e vedete che ci sono diverse strade, diverse tradizioni. C'è dentro Bartok, c'è il boogie-woogie, il ragtime. Questo per dirvi che in questo tipo di approccio c'è una ricchezza culturale che non è solo l'eredità africana, che è dominante in questa idea del pianoforte come un tamburo, ma questa idea del pianoforte come un tamburo si è nutrita di una tradizione culturale molto ricca. Tra l'altro nella slide successiva voglio farvi anche vedere alcuni dei grandi discepoli di Cecil Taylor, tra cui naturalmente il nostro Antonello Salis, che ha iniziato proprio con quel tipo di stile. Il nocciolo del discorso è quindi che noi abbiamo uno strumento di tradizione occidentale, forse il più complesso che la tradizione occidentale abbia prodotto, e che fin dai tempi di Gottschalk, cioè negli anni in cui il pianoforte andava definendo la propria identità di strumento moderno, si è ibridato con una concezione estetica che non è quella occidentale per la quale è nato. E questa concezione estetica ha arricchito, trasformato dall'interno lo strumento, facendo sì, diciamo, mettendo in atto quello stesso processo storico che è alla base del jazz, cioè una cultura straniera, chiamiamola così, esterna come alla tradizione occidentale, come quella africana, che si impossessa in questo caso di uno strumento, di un'estetica, di un suono, e la plasma dall'interno in maniera ricca, assimilando anche Bartok o Stravinsky o Stockhausen, la assimila, la trasforma dall'interno e produce un'estetica nuova, che è la sintesi di quella africana e di quella occidentale, quindi un profondo arricchimento culturale ed espressivo. Grazie.